percorso è strutturato in senso cronologico, prende avvio dalle opere degli anni 50, che sono quelle meno conosciute di Saffaro, e sono dedicate a delle personificazioni molto fantasiose, enigmatiche e assai, voglio dire, accattivanti dal punto di vista iconografico, e poi si svolge negli anni 60 attraverso una distillazione di quelle che sono le forme, che prima erano figurative, adesso acquistano una dimensione più geometrico-strutturale. Saffaro ha utilizzato per interpretare le figure di carattere matematico, nel senso che la matematica viene incontro alle sue esigenze e permette di attuare un metodo molto razionale, l'afflato poetico del suo modo di intendere l'arte, sempre tenendo presente che va oltre quello che è il veduto e che pone lo spettatore al cospetto degli interrogativi fondamentali dell'esistenza. Ma è una sala di documentazione dove viene proiettato in loop un documentario su Lucio Saffaro attraverso le voci e gli interventi di vari studiosi che fanno parte della sua storia, almeno di quelli che sono stati ancora in grado di poterle testimoniare la grande rilevanza e soprattutto l'altezza poetica. Tra questi volevo ricordare, in quanto è stato uno dei fondatori della Fondazione Saffaro, uno di coloro a cui Saffaro ha affidato il destino del suo lavoro, vorrei ricordare Giovanni Maria Came, studioso che è riuscito a esplorare tutto l'universo creativo di Saffaro e che ha sempre tenuto presente il fatto che in lui ogni presupposto matematico, ogni verifica scientifica è sempre sottoposta all'idea di pittura, e quindi sono i dipinti, non sono illustrazioni di pensieri legati alla scienza, ma sono il modo più diretto, più vero e più autentico di interpretare quei pensieri per portarsi verso l'oltre, verso l'ignoto. In mostra troviamo più di 80 opere che, unite ai libri, alle varie documentazioni, alle grafiche che sono esposte nel bookshop, costituiscono un centinaio di immagini che sono il minimo indispensabile per comprendere l'intera storia di Saffaro e quindi per poterla vivere nelle sue più profonde pieghe, nelle sue più profonde declinazioni. Le opere sono totalmente, tranne alcune che erano presenti nella collezione di Palazzo Fava, sono tutte di proprietà della Fondazione Saffaro, che fu fondata all'inizio del 2000 proprio per divulgare e sostenere il lavoro dell'artista nel tempo. Era stato un progetto voluto da Saffaro stesso, era stato affidato appunto a Giovanni Maria Came, critico, e all'amico Federico Carpi, che è il presidente della Fondazione medesima. Sono stati realizzati attraverso il lavoro della Fondazione il catalogo generale della grafica e dei dipinti a cura di Gisella Vismara, che può essere considerata, come lei ben sa, quella che io definisco come la saffarologa eccellente, che conosce tutto del lavoro dell'artista nelle sue più varie situazioni, cioè legate alla letteratura, alla teoria, oltre che ai pensieri della scienza e dell'arte come ultima finalità di tutto questo lavoro di ricerca.